Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. È finita l'era dello spot. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questa è una delle questioni più dibattute nel mondo della pubblicità, alle prese con una vera e propria rivoluzione dettata dalla convergenza con il web e con i nuovi format di comunicazione. Oggi vi raccontiamo un esperimento molto interessante, il primo docu-talent italiano sulla moda. Nello spazio dedicato al retail torniamo invece a parlare di un tema caro anche agli urbanisti, lo spopolamento dei centri storici. Focus sui trend, infine, tutto dedicato a una delle tendenze più in evidenza in questa nuova stagione di consumi, parliamo di anni 50 mania. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Torna Milano Moda Donna. Dopo New York, il prêt-à-porter femminile per la primavera-estate 2012 fa tappa nel capoluogo lombardo, dal 21 al 27 settembre, per poi chiudere la stagione a Parigi, dal 28 settembre al 5 ottobre. Lo shopping migliore si fa quando si è felici. Lo sostengono i ricercatori americani dell'Università del New Hampshire e del Politecnico della Virginia. Resta il valore antidepressivo degli acquisti quando si è tristi, ma se si va per negozi di buon umore, dicono gli esperti, la soddisfazione sarà più duratura. A causa dei rincari di prezzi e tariffe, negli ultimi 10 anni le famiglie italiane hanno perso 10.850 euro a nucleo e per il 2011 è attesa un'ulteriore stangata, stimabile in 1.500 euro a famiglia. Lo sostengono le associazioni di consumatori aderenti a Casper, Comitato contro le speculazioni e per il risparmio. Nasce il primo tessuto fotosensibile, che permetterà di confezionare capi che cambiano colore alla luce del sole. Il tessuto, brevettato dal lanificio Allegri, piccola azienda della provincia di Prato, verrà presentato in anteprima al Salone Mondiale dei Tessuti, in programma a Parigi dal 20 al 22 settembre. Calcio, marketing e lingerie. Il Newcastle pensa anche alle sue tifose e lancia una linea di biancheria intima. Reggiseni, shorts e pigiami, tutti rigorosamente bianchi e neri, i colori della squadra inglese. La borsa della spesa. Elena, ciao, sono Salvo. Come va? Senti una cosa, abbiamo un piccolo problema. Hanno anticipato il fitting di un paio di giorni, quindi dobbiamo finire tutto entro stasera. Tu a che punto sei? Ok, pantaloni? Hai fatto l'orlo e accorciato di 20, come avevamo già detto. Il fitting per loro è paura. Fear. Perché? Perché fino adesso abbiamo visto solo i disegni, i drawings. Il giorno prima del fitting diventa sempre abbastanza folle, cioè corse assurde. È sempre abbastanza ansioso. Poi arrivi là la mattina che tipo hai l'ansia a morire, perché non avendo mai portato sulla modella, non sai come le stare addosso. Quindi è proprio o la va o la spacca. Quindi lo metti su, preghi Dio che tutto vada bene. Entri e già appena entri vedi subito come va. Buongiorno, ciao. Purtroppo nessuno sa fingere lì dentro. Tu entri e già capito, ok, sta andando benissimo, sono ok. Sono messo male. Era The Fashion School, primo docu-talent italiano sulla moda, ma anche uno dei primi esperimenti televisivi di branded content, una forma di sponsorizzazione molto evoluta che consiste nella creazione di contenuti, film, programmi TV come in questo caso, oppure serie per internet legati a un brand o a un prodotto. Il brand in questo caso è l'Istituto Marangoni, la scuola di moda e di design in cui sono ambientate le storie dei 12 studenti che inseguono il sogno di diventare stilisti. Storie articolate nelle 4 puntate che verranno trasmesse dal 24 settembre su Sky 1. Uno dei casi più famosi di branded content è The Hire, 8 cortometraggi firmati BMW, protagonista, pensate, Clive Owen. In un episodio c'è anche Madonna. È una formula che va oltre lo spot pubblicitario, ovviamente, ma anche oltre il tradizionale product placement. Una formula che trova molti estimatori convinti che stimoli la creatività e sia tutto sommato una scelta di marketing onesta e trasparente, ma anche molti critici. The Fashion School rappresenta una vera innovazione nel mondo della comunicazione e promette grandi sviluppi, ci dice Tiziana Martinengo, regista, autrice di programmi di successo come L'Isola dei Famosi, X Factor, Meteore, solo per citarne alcuni, di JWT Entertainment, la nuova unit dell'agenzia di pubblicità JWT, nata proprio per produrre contenuti televisivi come The Fashion School. L'ha intervistata Marta Cagnola. A differenza magari di molti colleghi, lo dico onestamente, che magari tendono a snobbare il prodotto in un programma, oh c'è il prodotto, allora mi sento sminuita, oppure al contrario, i pubblicitari un po' puzzini che dicono no, la televisione, devo dire che qui c'è stato un incrocio meraviglioso con J. Walter Thompson, nel senso che ci siamo resi conto che si potevano portare le due esperienze insieme, da parte loro un modo di comunicare, un linguaggio, e da parte nostra un background della televisione. Per cui, secondo me, è una nuova frontiera. Una volta si diceva, quando metti il prodotto in TV fai le marchette. Invece credo che se ci si mette delle teste, insomma, che pensano da punti di vista diversi, ma intorno allo stesso tavolo, con un unico obiettivo, si possa arrivare a fare un buon prodotto che accontenti il cliente senza diventare invadente nel programma, perché quello che noi vogliamo portare, il brand content, non è parlare del prodotto e fare la telepromozione, ma trasferire la mission che vuol trasmettere il prodotto, per cui lavorare sull'obiettivo, sul target di riferimento. E Roberto Riccio, Managing Director di Istituto Marangoni, si dice orgoglioso del progetto. Ci piaceva l'idea di portare le telecamere all'interno di questo mondo che tutti pensano molto esclusivo, molto chiuso, perché pochi studenti possono permettersi di venire qui perché c'è una grossa selezione. Non abbiamo bisogno di nuovi studenti perché la scuola raggiunge sempre i suoi numeri, però sicuramente volevamo rafforzare e reiterare il fatto che in Italia dal 35 c'è una sola scuola che ha aiutato la moda italiana a diventare quello che è e che attualmente comunque sta continuando a generare nuovi talenti. Ora cambiamo argomento con il direttore di retailwatch.it, parliamo di negozi, centri storici e centri commerciali. Codice a barre di Luigi Rubinelli. Nel 2009 l'Istituto di Ricerche Nielsen spiegò che il saldo tra aperture e chiusure nel canale dei supermercati era negativo per 101 unità. La notizia fece scalpore perché siamo abituati a vedere chiudere i piccoli negozi delle periferie delle città, ma non di certo i punti di vendita della grande distribuzione. Se si va a leggere il dato in profondità si scopre che alcuni supermercati erano stati chiusi per trasferimento in location più visibili e per l'allargamento delle superfici. Ma tant'è, lo scorso anno le cose sono andate meglio e il dato del saldo tra chiusure e aperture è tornato in positivo per la tranquillità di tutti. Ma se la grande distribuzione sorride, lo stesso non può dirsi per i piccoli negozi, soprattutto nei centri storici. A Milano, la zona proprio dietro il Duomo, attraversata da via Mazzini, osserva una chiusura via l'altra. Cedono i negozi storici, magari per l'invecchiamento dei proprietari che non hanno figli o i cui figli non vogliono rilevare l'attività, ma chiudono anche alcune attività appena aperte, complice la crisi sociale che stiamo vivendo e soprattutto l'esosità degli affitti ai quali possono ormai far fronte solo gli istituti di credito. Lo stesso avviene nel centro storico di Brescia, di Novara e di molte altre medie città italiane. Al posto di chi chiude, a volte ecco i vari centri benessere asiatici, la cui attività è borderline. Ecco i negozi che comprano oro in rapidissima espansione, sia come formule imprenditoriali dirette, sia, incredibile a dirsi, attraverso le formule del franchising. Perseverano anche le società di telefonia che sembrano non risentire della crisi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, questo è il momento del focus sui trend, oggi tutto dedicato agli anni 50. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy anticipavamo la scorsa settimana, sono proprio gli anni 50, il decennio da riscoprire quest'anno. Non è un caso se dal telefilm cult anni 80, che idealizzava la vita americana a cavallo tra gli anni 50 e 60, non è un caso, dicevamo, se proprio da Happy Days ultimamente è stato tratto anche un musical che sta facendo il giro del mondo, Italia compresa. Per parlare di questa tendenza ci ha raggiunto in studio, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie e buongiorno a tutti. Dalla moda al design, passando per letteratura, cinema e televisione, la pubblicità e la comunicazione nel mondo dei consumi ce lo confermano, l'imperativo quest'anno è strizzare l'occhio ai 50s. Patrizia. Sì, possiamo rubricare il ritorno degli anni 50 come una delle tante cicliche rassicuranti incursioni nel già noto. Sicuramente la crisi e i suoi lasciti di incertezza producono questi tentativi di salti in avanti ma anche di passi indietro. Passi indietro verso cosa? Se parliamo di merci, oggetti, prodotti, servizi, la risposta è verso la tradizione, che oggi è cool. Uso non a caso questo aggettivo, che era in voga negli anni 90 e significava allora soprattutto fare piazza pulita del passato e della storia in nome del nuovo a tutti i costi. Oggi cool possiamo dire che è omaggiare la tradizione, citarla, ripresentificarla. Ed ecco appunto lo stile 50s, che diventa una tra le importanti tendenze moda autunno-inverno 2011, con un'esplosione di gonne a ruota, scarpe a punta, bustini e capelli cotonati, guanti affusolati, ma anche biancheria intima, contenitiva e modellante, lanciata da Intimissimi con la collezione Shaping. Riappaiono gli anni 50 tra i grandi del lusso, quindi Prada, Louis Vuitton, che scelgono i capi antichi con dei tributi anche ironici a questo bon ton delle donne con vitino di Vespa, mai valorizzate come in quella decade, e scarpette appuntissima. Revival che persiste nelle campagne stampa di Dolce Gabbana, la cui tradizione è fatta tra l'altro di corsetti pizzi, Gepier, eccetera, a tinte sicule, la testimonial è Madonna, in abiti aderentissimi in pizzo e micro pois, mentre Scarlett Johansson posa con Miss Dantan per la collezione Mango. Riscoperta e valorizzazione delle radici e del proprio DNA anche per Gucci. La campagna stampa celebrativa dei 90 anni di Gucci è un ritorno al passato con uno scatto fotografico in bianco e nero, è il 1955, e ritrae Aldo Gucci sull'uscio del celebre negozio di Roma. 1955, stesso anno celebrato anche da McDonald's. I nuovi spot televisivi ci dicono in questi giorni è il nuovo 1955, con un gioco di parole su questa data, su questo numero, che è il nome di un nuovo panino lanciato in occasione dei 55 anni di vita del colosso del fast food. Ma il fenomeno moda, e non solo moda, davvero interessante è il look Mad Men della collezione appena lanciata da Banana Republic. L'avevamo anticipato domenica scorsa, doveva essere concomitante all'inizio della quinta stagione della serie, che invece è stata procrastinata al 2012, e questo non pare sia un problema per la collezione, ma anzi sta diventando compensativo di questa assenza astinenza, secondo il presidente di Banana Republic, Jack Calhoun. Mad Men, lo ricordiamo, è la serie televisiva definita niente di meno che dal mensile Cahiers du Cinéma Magnifica, ambientata negli anni 50, intorno alle vicende di un'agenzia di pubblicità di New York. Racconta di dirigenti, impiegati, segretarie, mogli, amanti, figli, tra casa e ufficio. Come scrive la Aspesi, tutti bevono whisky in continuazione, tutti fumano ininterrottamente, la femminilità è esplosiva. Nessuno si preoccupa del colesterolo o dell'ambiente, e forse è per questa libertà si può aggiungere che quegli anni ci appaiono invidiabili. Mad Men, ma non solo, si presenta già come miniserie evento dope, una storia ambientata nei bassi fondi di New York negli anni 50, protagonista un'attrice quotatissima come Julianne Moore, regista Todd Haynes, lo stesso di Mildred Pierce, altra miniserie ambientata invece negli anni 30, qui la protagonista è Kate Winslet, verrà trasmessa in Italia ad ottobre. Anche sul grande schermo ci sono pellicole di riferimento, una di queste è The Tree of Life di Terrence Malick, Palma d'Oro a Cannes, vero e proprio condensato dei temi anni 50, sogno americano, benessere, patriottismo, famiglia, e i protagonisti sono due pezzi da 90 come Brad Pitt e Sean Penn. Ci sono due vie per affrontare la vita. la via della natura e la via della grazia. Sta a te scegliere quale delle tue seguire. Oh, coccodrillo! Sarai grande prima che quell'albero diventi alto. Ci vuole una volontà di ferro per farsi avanti in questo mondo. Forza! Colpiscimi! Colpiscimi! Avanti, figliolo! Ha paura di te. Pretendi da lui cose che solo un adulto potrebbe fare. Guidaci fino alla fine del tempo. Se non ami, la tua vita passerà in un lampo. Patrizia, cinema, TV, ma anche in libreria si parla di anni 50. Sì, occhieggiano i 50s anche in libreria con romanzi scritti ma anche ambientati in quegli anni. Sta per uscire per esempio in italiano il manuale intitolato Sei una Jackie o una Marilyn, che profila, diciamo così, queste due insuperate icone di stile di quegli anni, la signora di gran classe Jacqueline Bouvier Kennedy e la bionda sexy per antonomasia. Matrimoni anni 50, anche nel bestseller di Winfred Woolf, Tutte le ragazze lo sanno, diventato tra l'altro un film commedia di grande successo nel 59, e riedizioni di libri come Gabbie per amanti di Dawn Powell del 57 o La signora Harris di Paul Gallico. Ma non solo libri, anche eventi. Popolarissimo l'evento italiano celebrativo dei 50s americani, il Festival di Senigallia Summer Jamboree, si è tenuto dal 30 luglio al 7 agosto, alla 12ª edizione, ed è la kermesse di musica e spettacolo che appunto celebra questa decade, con balli scatenati dal Charleston al boogie al jive, concerti swing, stage di rock and roll, sfilate di Cadillac per le strade, ma anche spettacoli di burlesque e un popolo di seguaci travestiti tipo cosplayer, ballerini di boogie, estimatori rockabilly e anche esteti dei 50s. Il festival attira folle di persone e soprattutto di giovani, e l'Homography, noto brand di macchine fotografiche analogiche nonché stile fotografico sperimentale di una enorme community internazionale, non ha perso l'occasione per lanciare un concorso all'interno del festival e immortalare i personaggi e l'atmosfera più audacemente retro. Non poteva non tornare anche il drive-in. Un esempio tra i molti in Inghilterra si chiama Starlight Urban Drive-in, stagionale, recentemente sponsorizzato da Volvo alla Old Truman Brewery di Londra, la ex fabbrica di birra del quartiere artistico creativo dell'East London, adibita a spazi per eventi, anche retail e per uffici. Gli spettatori guardano i film, inclusi naturalmente i classici Grease e Dirty Dancing, prime espressioni, possiamo dire, di successo del culto degli anni 50, seduti in 25 automobili Volvo nuove messe a disposizione per l'occasione. 40 sterline il biglietto, che comprende un cocktail, i popcorn e l'immancabile cameriera su pattini a quattro rotelle per la consegna degli hamburger dal finestrino. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su anni 50 e dintorni? Ce lo racconta Alessia Zampano di Memetic Club, la nostra Urban Watcher. Alessia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Beh, sembra incredibile a dirsi, ma nella megalopoli americana impaccia un servizio di consegna a domicilio delle bottiglie di latte, proprio come nei rassicuranti happy days degli anni 50, scanditi dalla routine mattutina di giornali e latte lasciati sulla porta di casa. La storia di Jim Pastor è tanto nostalgica quanto imprenditorialmente interessante. Lattaio di professione, si sente spesso chiedere: ma sul serio, esiste ancora il lattaio come ai vecchi tempi? E proprio come una figura mitica, ogni giorno parte da Santa Ana e con il suo furgone refrigerato targato Rockview Milk Home Delivery, il nome dell'azienda, rifornisce settimanalmente 4.800 case tra le contee di Los Angeles e Orange. Il latte è raccolto a meno di 48 ore dalla mungitura e nonostante il prezzo sia più alto di circa 20-30 centesimi rispetto a quello del supermercato, il numero degli abbonati sale vertiginosamente. Tanto che Jim ha aggiunto alla sua offerta anche uova, formaggio, burro e pane, tutti prodotti rigorosamente a filiera corta. In pratica tutto l'occorrente per fare un'ottima colazione fresca, sfogliando i titoli probabilmente sull'iPad, visto che il lancio del giornale non ha lo stesso valore in termini di stili di vita e di consumo che invece il chilometro zero e la garanzia di un prodotto fresco a domicilio incarnano. Grazie Alessia, magari un suggerimento anche per i lattai italiani, se ancora ce ne fossero. Patrizia, siamo in conclusione. Due anni fa, un anno fa, era tutto un fiorire di anni 80 mania, lo sappiamo, non è una sorpresa la nostalgia, il fascino retro che porta a idealizzare il passato è fatto anche di corsi e ricorsi. Ma è solo questione di cicli o c'è qualcosa di più? Perché gli anni 50 adesso? C'è una ragione? Ma dunque, ripescare formule già testate è certamente un modo per mettere un po' di sogno in questo momento di crisi e non è certo tempo per ottimismi infondati. Gli anni 50 ci riportano l'idea molto precisa di speranza, benessere economico, anche vita semplice, semplificata e regolata. Per esempio il matrimonio, non a caso un elemento centrale e stabilizzatore intorno a cui ruotava quel mondo. Naturalmente il recupero di questi temi che sono sul piano dell'immaginario non è evidentemente un recupero tel quel, le icone, gli stili, gli oggetti vengono reinnestati in un presente, rivisitati soprattutto in termini estetici. Evidentemente non potrebbe essere altrimenti, perché al passato noi guardiamo dal tempo in cui siamo. In questo specifico recupero degli anni 50 si può leggere dunque voglia di concretezza e di rassicurazione. Il tempo a nostra disposizione è finito, se vi siete persi qualcosa cliccate su radio24.it, potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere e Avere. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.